L'amore è una cosa meravigliosa, parte seconda. Progresso. Capitolo primo. Ritorno a Chongqing, settembre 1949. I nostri sentimenti sono generalmente governati da banali associazioni e spesso influenzati da quella specie di logica a breve scadenza che rende superflua la riflessione continua. Da parecchi mesi ormai, e cioè circa dal mio arrivo a Hong Kong, mia sorella Su Shen mi scriveva brevi lettere sconnesse e angosciate sulla malattia della sua bambina e sul terrore che le incuteva l'avanzata comunista. In seguito mi scrisse lamentandosi delle scortesie della famiglia. Ricevetti infine un suo biglietto disperato, in cui mi comunicava la sua decisione di venire a Hong Kong, mi pregava di trovarle un alloggio e una sistemazione. Le accuse alla nostra famiglia con cui concludeva la sua lettera mi irritarono grandemente. Non mi era possibile credere che quelle persone che amavo e che si erano dimostrate buone e generose con me non lo fossero anche con lei. Evidentemente, col suo temperamento nervoso e ipersensibile, ella aveva male interpretato le loro intenzioni. Così le risposi brevemente, consigliandola a rimanere dov'era. Sei certamente più al sicuro a Chongqing con terzo zio e la famiglia di quanto lo saresti qui a Hong Kong senza lavoro. Io non posso mantenere te e la tua bambina. E la città è sovraffollata. Terzo zio e terza zia sono buoni e gentili. Terzo zio è fratello di nostro padre e non posso credere che gli abbia fatto le cose di cui lo accusi. Non appena ebbi impostata la lettera, mi resi conto che effettivamente c'era qualcosa che non andava. Mi sentii inquieta. Non era quello che mia sorella mi aveva scritto a preoccuparmi, bensì l'improvvisa constatazione dell'assoluta mancanza di un qualsiasi accenno a Su Shen e alla sua bambina nelle lunghe e bellissime lettere che terzo zio mi aveva scritto. Conoscendo la mia famiglia cinese, di quella conoscenza istintiva più potente di qualsiasi ragionamento, avrei dovuto avere meno fretta nel liberarmi di questo contrattempo. Più ci pensavo e più mi convincevo che si doveva fare qualcosa. Inoltre c'era un'altra questione che avrei potuto affrontare contemporaneamente, quella dei miei rapporti con Mark. Decisi quindi di ritornare in Cina per rendermi conto della situazione, poiché da Hong Kong non mi era possibile giudicare e agire in modo soddisfacente. Ottenuta una breve licenza, mi feci prestare da Nora e Robert Hung il denaro per il viaggio di andata e ritorno in aereo e inviai due telegrammi, uno a Su Shen e uno a terzo zio, annunciando il mio arrivo per la settimana seguente. Era ancora buio quando raggiunsi l'aeroporto di Kai Tak. Il mare e le colline erano ancora soffocati dalla fuliggine della notte e il mio onnisciente autista avanzava a lume di naso poiché i fari del taxi non funzionavano. La sua nuca era l'unica cosa in cui potevo riporre la mia fiducia nell'oscurità che ci circondava. Poi, d'un tratto, fui avvolta da un fulgore di luci al neon, quasi solido nella sua intensità, e un odore di benzina e di acciaio mi rivelò la vicinanza di lucide macchine in attesa nei loro capannoni. Il brusco passaggio nella realtà visiva, allorché entrai nella sala d'aspetto dell'aeroporto, mi diede una sensazione di stupore, non perché la luce rivelasse tanto di più, ma perché limitò istantaneamente la mia fantasia. Nell'oscurità mi ero sentita come un fantasma avvolto in una nuvola che si dissolveva e continuamente si riformava. Avevo udito il fragore agghiacciante ma piacevole del mare d'ebano che mi avvolgeva e battuto il naso della mia immaginazione contro le aguzze colline che mi sorgevano bruscamente dinanzi. Ora, invece, la luce mi rivelava un banco coperto di bottigliette di Coca-Cola e di aranciata ben allineate dietro ai cristalli lucenti. Tavolini segnati dal cerchio dei bicchieri umidi, gruppi di avieri in grigio-azzurro dalle gambe stranamente aggrovigliate a quelle dei tavolini, il tutto limitato dal biancore di carta delle pareti e soffocato dal basso soffitto. E Mark, venuto per salutarmi, solo a un tavolino col capochino su un libro. Ho così paura degli aeroplani che voglio dare un'occhiata alla macchina che ti porterà via, mi disse. Fino all'ultimo momento non vuoi abbandonare la presa sulla tua vittima, risposi. E una volta giunta nel Sichuan, Il tuo io cinese avrà il sopravvento su tutti gli altri tuoi io che conosco. Mi giudicherai con occhi puramente cinesi, ti chiederai se valga la pena di tenermi. Oh, lo farò, certo, voglio vederti da lassù per capire come sei veramente. Non bisogna dimenticare che dovremo vivere insieme, il mio io cinese e il tuo io inglese, oltre a tutti gli altri noi. Più di qualsiasi altro mezzo di trasporto usato dall'uomo, il viaggio in aereo altera il rapporto tempo-spazio e provoca un cambiamento di personalità. Ognuno di noi è diverso secondo il luogo in cui si trova e l'aereo rende tali trasformazioni rapidissime. Lasciai Hong Kong e il mio amante inglese alle 8 di quella mattina di settembre. Già cominciavano a manifestarsi le sottigliezze dell'autunno, un primo brivido di frescura, una pensierosa calma nell'aria, un lieve avvizzire del caldo mattutino. Il cielo si stava ripulendo d'azzurro e i motori tossivano, urlavano, sputavano e si fermavano come vecchi che si schiariscano la gola al risveglio. Marc ed io consumammo un'abbondante colazione, 3 uova a testa con pantostato e caffè. Ci siamo dimenticati di cenare ieri sera, disse Marc, sorpreso della propria fame. Il giorno sorgeva e le ruote degli aerei correvano lungo la pista levigata per poi levarsi leggeri e senza alcuno sforzo nel cielo azzurro. Poi venne il mio turno e lasciai Marc nel sole che striava d'oro i suoi capelli. Lasciai Marc e Hong Kong alle 8 di quella splendida mattina di settembre per giungere a Pei Shi Yi, l'aeroporto di Chongqing, nel cuore della pianura di Sichuan, 3 ore più tardi. Sì, giunsi in Cina per vedere quello stesso aeroplano avanzare barcollando come un ubriaco sulla pista sconnessa e raggrinzita, piena di pietre e di solchi, lasciandosi dietro una scia di polvere gialla. Per sentire l'immediata arsura al naso e alla gola del clima secco di Chongqing a cui non ero più abituata, per trascinarmi pesantemente nel caldo, per vedere con muta sorpresa i coolies addetti all'aeroporto coperti di sudici stracci anziché di linda seta nera, per osservare i visi solcati dalla miseria, per udire le voci brutali dei funzionari invece di quelle affabili dei ben nutriti impiegati statali di Hong Kong, per osservare il contrabbando che veniva apertamente esercitato nella baracca dove si procedeva a una pseudo-ispezione doganale, per ricordare Hong Kong così pulita in confronto alla Hong Kong dei ricchi che possono permettersi di viaggiare in aereo. Mi si strinse il cuore, poiché qui tutto era decrepito e inefficiente. Come possono continuare così? Pensavo. Non c'è da meravigliarsi che i comunisti vincano senza spargere una sola goccia di sangue. Intorno a me le voci avevano il familiare accento Sichuan e il tè che bevvi, seduta a una rustica tavola di legno grezzo nella baracca, era il tè cinese di un giallo limone e non scuro come quello indiano. Sul fondo della tazza c'era un mucchietto di polvere, come sempre a Chongqing. E anche l'acqua aveva un sapore diverso. Poi, bruscamente, la trasformazione si compì. Il mio io di Hong Kong scomparve e fu come se non avessi mai lasciato quel luogo. Conoscevo l'aeroporto meglio della mia camera all'ospedale e quando chiesi il conto la mia lingua prese a rotolare le sillabe. Già avevo dimenticato il cantonese imparato da poco. Quelle colline erano le sole che conoscessi, arricciate di alberi simili a ciuffi d'erbe sulla cresta e non nude come le colline di Kowloon che avevo lasciato quella stessa mattina. Quanto alla profonda carreggiata fangosa che arrancando su e giù per i declivi giungeva fino alla città, distante 17 miglia, era il solo genere di strada che potessi ormai concepire. All'aeroporto di Kitak 20 minuti erano sufficienti per passare la dogana, farvi stare i passaporti, salire in autobus e arrivare al Peninsula Hotel, punto di partenza e di arrivo dei passeggeri. A Chongqing ci vollero ben 7 ore per fare le stesse cose, lo stesso tempo che avremmo impiegato per l'andata e ritorno a Hong Kong con un'ora di sosta per il pranzo. E tuttavia non avvenne alcun incidente durante il tragitto. Sebbene quella specie di autobus che ci trasportò per 17 miglia fino alla città fosse in uno stato tanto pietoso che persino gli incalliti abitanti del luogo che viaggiavano con me si chiedevano come fosse possibile che l'autobus camminasse ancora. L'autobus non era stato riverniciato dalla fine della guerra e anche la carrozzeria di legno se ne stava andando. Il misero relitto non possedeva più né finestrini, né sportelli, né sedili. Del volante era rimasta soltanto una metà e dei fari e dei parafanghi non rimaneva assolutamente traccia. Tutti ci guardammo intorno in cerca di un qualsiasi mezzo di trasporto, poiché nessuno di noi poteva credere che quella carcassa sgangherata potesse portarci in città. Ma non si vedevano altri veicoli di nessun genere e alla fine dovemmo rassegnarci a obbedire alle urla di un grasso ufficiale che ci ordinava di salire. Simili a riluttanti prigionieri spinti nel furgone carcerario, ci arrampicammo aiutandoci a vicenda, poiché non v'erano predellini, e sedemmo sul nostro bagaglio pigiato alla meglio, in modo da otturare i buchi delle tavole sconnesse e marcite. Non appena fummo tutti dentro, fusi in una massa compatta, due soldati in uniforme grigia legarono due grossi pali attraverso l'apertura per la quale eravamo saliti, togliendoci ogni via di scampo. E li attendemmo per un'ora, pigiati e soffocati, sorvegliati dai soldati che passeggiavano avanti e indietro, trascinando a terra il calcio dei loro lunghi e melodrammatici fucili. Tale è la capacità di suggestione della mente umana e la malleabilità della coscienza che un furtivo senso di colpa abbassava in un mormorio sommesso le lamentele dei miei compagni di viaggio sul caldo, le mosche e il ritardo. Il fatto di trovarci rinchiusi ci spaventava e sentivamo di aver commesso una colpa di cui non riuscivamo a ricordarci. Arrivammo infine alla stazione della linea aerea, un fabbricato di cemento su di un lato dell'ampia curva che sale verso le colline di cui è costituita Chongqing. 200 metri più sotto scorre il fiume. Una buona metà di noi si sentiva male per gli scossoni e a tutti doleva la schiena. E subito mi apparve nell'apertura, che avrebbe dovuto essere un finestrino, il viso familiare di Quinto Fratello, immutato, ad eccezione del naso che gli anni avevano più fortemente modellato. Terza sorella, chiamò. Oh, Quinto Fratello, esclamai contenta, non sei affatto cambiato in 8 anni. Non sembra che siano già passati 8 anni, vero? Sei stata in Inghilterra a studiare medicina ed io ho girovagato per la Birmania, alludendo con ciò ai suoi 4 anni di guerra in Birmania, ed ora ci ritroviamo nella vecchia casa. Risposi con una citazione da un poema cinese. Quanto spesso ho alzato lo sguardo per fissare la luna, quanto spesso ho abbassato lo sguardo per pensare alla mia casa. Quinto Fratello rise, rivelando i denti bianchissimi che tutti abbiamo in famiglia e di cui andiamo tutti orgogliosi. Anche tu non sei cambiata, disse. No, ammisi soddisfatta, non sono cambiata. L'Inghilterra non mi ha cambiata. Nulla aveva potuto mutarmi, non l'Inghilterra, né gli studi e la carriera, né le molte decisioni che avrebbero dovuto allontanarmi. Tutto ciò che riguardava il presente immediato e che ancora quella mattina avevo considerato tale, mi appariva ora come facente parte di un passato più remoto degli 8 anni di assenza dalla Cina. Guardai il fiume, impassibile e tranquillo, che divideva la Cina in nord e sud. L'avevo mai lasciato? Scorreva serpeggiando all'infinito, come la vita dell'uomo. Ripetei ad alta voce queste righe di Li Ho Chu: domanda il mio signore quanto dolore uno può contenere. Tanto quanto il grande fiume in piena primaverile che scorre verso est. In Europa, spiegai a Quinto Fratello, tutti i fiumi vanno al mare, ma in Cina corrono verso est. Forse c'è un significato in questo. E forse no, ma comunque io sono tornata. Quinto Fratello ed io andammo a sederci in un negozio che appartiene alla famiglia. Il gerente ci portò sgabelli neri laccati e tazze di fumante tè di Tsingcheng, così fragrante da calmare la sete prima ancora di averlo bevuto. Ero proprio tornata. Non avrei mai creduto di poterlo fare così completamente. Molte cose erano cambiate e tuttavia io mi sentivo radicata saldamente come prima e la mia vita aveva ripreso a scorrere in armonia e con infinita pazienza, come il lento scorrere del fiume. Ero tornata. Il negozio dava sulla via principale, dalla quale gradini di pietra portavano alla strada sottostante, e la gente che li risaliva, comparendomi dinanzi, era gente che avevo sempre conosciuta. Non piccoli cantonesi dalle ossa minute e dal viso pulito, ma gente tarchiata dal viso brutto e appiattito e dalle pesanti gambe di contadino segnate da una rete di vene varicose simile a un groviglio di serpenti, uomini e donne sporchi e poveri. Quasi tutti erano afflitti da un difetto fisico, labbra leporine, dita mancanti, gobbe, e su tutte quelle spalle nude di coolies erano visibili grossi calli formati dalla continua pressione del palo di bambù. Alcune di queste callosità erano piagate e infette. Vedevo quello che avevo sempre visto: i sandali di paglia sui piedi nudi, i muscoli addominali tesi nello sforzo, i petti ansanti, il carico. Un carico di legna da ardere, un carico di carbone, un uomo con due secchi di escrementi, un altro con due ceste di pere marce, un altro con un carico di sale e un altro ancora con rossi meloni d'acqua tagliati a fette, disposte con cura in piramidi rosse e verdi stillanti di sugo. Poi un altro carico di escrementi e un uomo con due secchi d'acqua traboccanti. Risalivano quei gradini una continua processione che avrebbe avuto fine soltanto col calar della notte. Facendoci vento, Quinto Fratello ed io parlammo del clima di Hong Kong e di quello assai più caldo di Chongqing, delle migliorie fatte in città da quando io ne ero partita 8 anni prima e del grande incendio che aveva distrutto il quartiere degli affari e le cui rovine fumavano ancora. Parlando del disastro, Quinto Fratello rideva di quel riso ironico e sprezzante di cui siamo soliti ridere noi cinesi, dopo aver versato tutte le nostre lacrime, allorché la tragedia è tanto immane da diventare comica e ridicola. Fuoco e inondazioni, morte e rivoluzioni. È bensì vero che l'urto diretto di una catastrofe personale ci piomba nel dolore e che per un certo tempo anche noi portiamo i segni della disperazione e le nostre lacrime e i nostri lamenti sono sinceri quanto quelli di chiunque altro, ma è vero anche che, in un secondo tempo, possiamo ridere di noi stessi e delle cose che ci hanno fatto piangere, poiché non abbiamo la convenzionalità del riserbo e del silenzio propri agli europei. Non ci rinchiudiamo in casa a piangere e i nostri amici non cercano di consolarci. Dobbiamo adattarci come meglio possiamo alla vita e il riso non può mancare, poiché soltanto il riso ci potrà rivelare l'immensità del nostro dolore. Trattiamo allo stesso modo le esperienze che ci portano gioia e quelle che ci portano dolore, e un giorno rideremo di entrambe, giudicandole degne di essere vissute ed equivalenti sotto al cielo che livella ogni cosa, ricordandole come facenti parte del nostro tesoro di vita assegnatoci dal destino. Anch'io rido di cose che dovrebbero addolorarmi, anche degli incidenti stradali, allorché i sorridenti autisti delle ambulanze mi portano una nuova vittima del traffico. E una risatina nervosa che potrebbe farmi tacciare di insensibilità e di crudeltà, e che invece è soltanto lo scudo che mi permette di mantenere il mio equilibrio. In seguito, insegnai anche a Marca a ridere di molte cose che avrebbero dovuto farci male, e così non fummo mai addolorati o amareggiati a lungo. Fu quindi con le labbra atteggiate a un convulso sorriso che ascoltai Quinto Fratello raccontare quanto avessimo perduto nell'incendio e quante persone vi avessero perduto la vita. 6.000 misure di balle di cotone di nostra proprietà erano completamente bruciate in meno di 10 minuti e migliaia di persone erano rimaste senza tetto. Le fiamme erano così alte, disse sorridendo, che traghettai il fiume e mi arrampicai sulla collina per vedere lo spettacolo. Non avevamo acqua e non si poteva far nulla. Era una vista affascinante. Il fuoco dilagava giù dalle colline fino al fiume. La popolazione all'estremità della penisola si trovava in trappola, chiusa fra il fiume e le fiamme che incalzavano. Molti bruciarono vivi e molti annegarono. Altri saltarono sulle barche ormeggiate lungo la riva fangosa, ma vennero raggiunti dalle scintille e finirono miseramente. L'incendio si fermò a due isolati dalla nostra banca. Il cielo è stato generoso con noi. Dovete ciò alla proverbiale virtù della vostra illustre famiglia? Osservò il gerente del negozio che sedeva con noi. In Cina si godono i frutti delle buone opere degli antenati. Passammo poi con grande solennità a parlare della famiglia, argomento inesauribile poiché il nostro clan conta ben 300 bocche. Prozio era morto l'anno precedente e in seguito a tale calamità la prole della ventina di discendenti diretti aveva considerevolmente diminuito il suo ritmo di nascite. Essi appartenevano al ramo più tradizionalista della famiglia e il procreare durante un periodo di lutto veniva da loro considerato di pessimo gusto. Ma negli altri rami della famiglia avevano fatto la loro comparsa numerosi bambini. Quarta sorella aspettava il secondo rampollo ed anche quinto fratello si era sposato, ma sua moglie aveva avuto un aborto e doveva rimanere chiusa in casa per un mese. Liu Sao, la vecchia servente che era entrata nella famiglia da bambina e che aveva ora 72 anni, si era rifiutata di entrare nella sua stanza per timore di contaminarsi e così, quinto fratello, faceva lui stesso le pulizie poiché amava la moglie e non voleva che si stancasse. Man mano che parlava, io sentivo sempre più di appartenere a quel mondo. Erano tutte cose che conoscevo e anch'io avevo vissuto così. Nella mia mente le antiche superstizioni si ponevano a fianco delle ultime scoperte della scienza medica e certamente stavano alla pari nel giudizio del cielo, per il quale tutte le cose hanno la stessa altezza e lo stesso valore. D'un tratto, una strana parola mi venne alle labbra. Mark. Ripetei quel nome a me stessa. Mark Elliot. Era come un sassolino sulla lingua, un frammento slegato e anacronistico. Avrebbe mai più trovato posto nella mia vita. Non lo sapevo. Era tanto lontano. Esisteva realmente. Ora non ero affatto sicura che non fosse stato soltanto un sogno. Qual era la realtà e quale il sogno? Avrei dovuto scoprirlo.